and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Drago, non posso farlo, non sto bene. Siamo qui ormai, sei davanti al microfono. Ma non vedi? Ce la faccio. Ormai sei in diretta, non quindi devi faccio, parlare. Drago, dai. Non sto bene, bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da K. E un saluto da Drago. Ma non vedi, non mi viene, dai, non è spontaneo. Dai, saluta. Ciao a tutti i bambini, le bambine in ascolto. Sì, però, così. Non esagerare con i bambini, perché poi ci scambiano per un vero programma per bambini, nascono i malintesi. Ma quali malintesi? Sì, dai, qui con tutto sto miscuglio di realtà e finzione, mondo adulto e mondo bambino, creiamo confusione. Infatti, vedi, anche il nostro tutor si innervosisce. No, si innervosisce. Perché oggi non è ancora uscito a fare la pipì. E non l'hai portato fuori tu? No, ha troppo mal di schiena. Ti ho detto che non che sto rottame. Bene. Che rottame. Vabbè, mi succede 2 o 3 volte all'anno, mi succede. Altro sì. Che bambino K. Vabbè, e tu invece tu parli. E te tu sei con l'otite. L'otite ti è passata? Quasi, sì. Ma quasi cosa? Ci senti? Ah, sì, sì, è vero, no? Che... Ma cosa? Eh? Vedi. Ahimè, languono le notizie sull'obesità infantile. Questa settimana non possiamo fare la rubrica Sei grassa. Peccato, perché guarda, anche prima camminavo qui in redazione a Radio 24 sopra l'asilo e tutte le ragazze: ma quando è che parlate dell'obesità? Quando è che mi dite che sono grassa? Cose esatto, così. Sì. Peccato, infatti, perché riceviamo tante email da bambini e bambine con o senza tonsille che ci sottopongono i loro casi. Sì, ma no, adesso non fare così. Devi ricordare ai bambini all'ascolto, anche alle bambine all'ascolto, che esiste una correlazione tra l'obesità infantile e l'asportazione delle tonsille. Infatti, questa notizia, ampiamente diffusa negli ambienti accademici e nel web, ha suscitato tante reazioni nei nostri ascoltatori. Sì, io ho pensato una cosa, che scusa, siccome quando ti tolgono le tonsille poi ti danno il gelato, allora quelli senza tonsille mangiano tanto gelato, certo, e ingrassano. Durante il periodo dell'ospedale, quando stanno finendo di guarire. Convalescenza. Sarà per quello, però in realtà i nostri ascoltatori, che ci mandano le loro esperienze, quasi tutti si lamentavano del fatto di essere obesi, però avevano ancora le tonsille, capito? Poi c'era anche chi era obeso e senza tonsille e che chiedeva come farsele rimettere. Io non so se si possa. Ma cosa stai dicendo? Voglio dire, hanno tolto le tonsille. Ma non si puoi mica rimettere, ma mica puoi fare il punto d'oro alle tonsille, eh? Questo è molto divertente. E ora, bambini, ricreazione! Bambino piccola vedetta, come va lassù sull'albero? Si vivacchia. Ma non sei stufo di star lì, sei sempre lì, non so. Ma guarda, cioè... che sull'albero non è che si sta poi così male. Insomma. Poi ormai ci ho fatto il callo. Ci ho fatto il callo. Il callo? Cioè, mi sono fatto il callo là dove non batte il sole. Cioè, ma vi siete accorti? Cosa? Che non ho fatto scattare il parolacciometro, no? Ma perché sei astuto, bravo, bravo barbiere Alberto. Ma quale barbiere, che non mi cresce neanche la barba? Vabbè, barbiere, dai. E comunque è tutta una questione di attenzione, attenzione. Di concentrazione. Sì. Cioè, sia stare sull'albero, sia non dire parolacce. Quindi hai imparato una tecnica. Ma niente, ma non cosa te, una lascia tecnica. Stare, ma non lascia stare, è un bambino. Tra l'altro, la mia parte di piccola vedetta è una parte senza parolacce. Quindi ormai mi sono abituato a parlare in modo antico, no? Vabbè, giusto, bene, cioè, bene. Se devo dire una cosa, giro intorno con le parole e lo dico lo stesso senza dirla. Capito, furbo. Ed è imparato, è esperienza. Quindi invece di dire culo, dico là dove non batte mai sole. Ma no! Ma scusa, bambino Alberto, ti stiamo deconcentrando probabilmente. Allora no, dici le parolacce. No, perché... no, stavolta parlatemi pure. Basta l'attenzione. Perché devo imparare a concentrarmi anche quando sono in compagnia di altre persone, no? Certo. E sennò tutto è inutile. Vabbè, allora senti, facciamo una cosa. Ripassiamo un attimo la storia della piccola vedetta lombarda, perché insomma, allora, se non ricordo male, ci sono 2 soldati piemontesi, cavalleggeri di Saluzzo, che arrivano mentre tu, bambino Alberto, bambino piccola vedetta, tu stai intagliando dei rami con un temperino, Sì, ma io sono già sull'albero. No. Come sei già sull'albero? Cioè, abbiamo fatto le prove, sì, ma io non riesco a salire da solo sull'albero. Allora abbiamo fatto una modifica al copione, no? Ah. E io sono già sull'albero. Ma se tu arrivano i soldati e ti trovano già sull'albero, tu cosa stai facendo sull'albero? Vabbè, cerco gli austriaci. Ma no, ma non può essere sull'albero quando arrivano i 2 soldati, sono loro che ti dicono se ti sai arrampicare, cioè... Ma tu che scusa dici quando ti dicono, cosa fai sull'albero, bambino? Io sono sull'albero accoglio le ciliegie. Sì, ma questo no, non è nemmeno un ciliegio. È un faggio. Vabbè, ma non importa. No, vabbè, ma la scena però è diversa, scusa, da quella del libro cuore. Sì, ma leggermente, dai. Ma tutto perché tu non sei capace di salire sull'albero, dai. Ma non ti avevano messo quella scala a pioli che ti serviva? Sì, ma poi ci sono stati anche dei casini con l'assicurazione. La polizia, sai, gli infortuni sul lavoro, quella roba lì, no? Allora mi hanno detto di stare sull'albero e di stare attento a non cadere. Ma no, ma tutte le battute iniziali, tipo quando ti chiedono se saresti capace di salire, di arrampicarti fin lassù, cioè non va, va tutto tagliato, non va. Beh, per forza. Ma anche come? Perché alla domanda dovrei rispondere che no, che non sono capace. No, vabbè, ma... la recita finirebbe solo. Sì. Vabbè, vabbè, ma pensa che se la piccola vedetta vera, e cioè Giovanni Minoli, avesse risposto che non era capace di salire sull'albero, non sarebbe morto. Sì. Questo è un pensiero profondo. Sì, però non finiva nel libro di De Amicis. Vabbè, capirà la soddisfazione. Però sarebbe sopravvissuto e sarebbe diventato un dirigente della RAI, no? Vabbè, scusa Tito, hai ragione, qui divaghiamo. Uè, allora? Bambino alla matriciana. No, la matriciana è roba romana. E poi, allora? Cosa hai cambiato ancora nel copione rispetto a cuore? No, niente, loro arrivano, no? Cioè i piemontesi. Sì, e io sono già sì. sull'albero. Sì. E poi poco dopo mi sparano e muoio. Ah. E tu cosa dici? Chi? Tu! Cosa dico? Cioè, in che senso? Vabbè. Muoio, no? Faccio e cado dall'albero cercando di centrare il materasso. Ah, perché devi cadere davvero? Certo, però c'è il materasso. Vabbè, meno male che scusa, ma ti fidi? Scusa, metti che sei emozionato, c'è la recita, il pubblico, vedi i genitori, tutti quanti, tutti emozioni, e la mamma, ti gira la testa, non capisci più un tubo e ti butti giù senza beccare il materasso. Guarda che brutto, eh? Beh sì, in effetti sarebbe un po' brutto. Infatti. Però poi, prima di cadere, guardo dov'è il materasso, no? Sì, ma come fai? Ti sparano, ti beccano, guardi in giù prima di cadere. Ma cerco di non farmela accorgere, no? Tanto, da laggiù cosa vedete? Vediamo te. Secondo me è uno schifo sta recita. Già sono piccolo. In alto, non se ne accorge nessuno. Dai, allora, prova a farci vedere com'è, così magari capiamo e vediamo se lo fai bene. Vabbè, dai, allora. Però non vi è, secondo me è uno schifo. Dai, proviamo, dai, allora. Vabbè. Allora, facciamo che voi facevate... Cioè, voi fate finta di spararmi. Va bene, dai, allora. Va bene. Bang, bang! Mi hanno colpito! Ma non c'è il materasso, scusa. E non l'hanno ancora messo. E ora, bambini, e tutti a casa! Già ci sono le macchine, le sirene, tutto qua. Tu arrivi pure con il tappo della Bic. Però un bel fischietto, vedi? Sì. Si sembrate ieri. Adesso vabbè. Così, secondo me, arrivano tutti i cani del vicinato. Speriamo che Tito non si inquieti. Vabbè, è un po' che non parliamo di Marchionne, quindi vedendo forza, queste dai, macchine... Per forza che non ne parliamo, te l'ho vietato, basta. Perché? Ma basta, è l'italiano di gran lunga più stravagante del momento. Ma capirai la stravaganza. Ma dai, il maglioncino del liceo, le camicie a quadri, l'hanno paragonato a Mark Zuckerberg e a Steve Jobs. Ma cosa vuol dire? A parte che Jobs ha sempre il dolce vita. La dolce vita. No, il dolce vita, sì, come il Mercedes, il Golf. No, la Mercedes, il Golf, la Golf, però è diverso. Il Golf invece è quello che indossa. Tito, ma guarda, poi stai attento alle macchine. Vabbè, comunque, sappi che il New York Times, non fischiare che arrivano gli altri. Il New York Times ha appena pubblicato un articolo dedicato a Marchionne dicendo che il messaggio che Marchionne vuole veicolare è che non indossare giacca e cravatta sta a significare che l'azienda è più flessibile e quello che davvero conta va al di là del modo di vestire. È un rivoluzionario. Non fa una grinza. Cioè, uno può essere uno stronzo anche senza giacca e cravatta, no? Allora, qui c'è una controversia familiare che si sta sviluppando attraverso le quartine della sigla di Chiedo Asilo. Infatti c'è l'uomo della coppia che si lamenta del fatto che il cane va sempre a dormire sul letto, se ho capito bene. E la quartina recita così. Jack è un cane nero che dorme sul mio letto. Se sale un'altra volta lo trapasso con lo stiletto. Chiedo asilo. E poi c'è anche la risposta del cane Jack. Ah, ok, tu fai il cane, bene, no. Bene. Faccio io? Dormo sopra il letto, non sono mica scemo. E se non ti sta bene, ti lascio il mio divano.